Benvenuto su Oggi in Cristo. Sono Omar Stroppiana, l'autore di questo blog e podcast audio. Su questo sito troverai diverse centinaia di pensieri inerenti la Bibbia. Ho cominciato nel 2012 con brevi pensieri giornalieri su vari brani della Bibbia, presi qua e là, senza particolari correlazioni tra un giorno e l'altro. Poi, dopo alcuni anni, mi sono reso conto che molte persone non hanno mai letto la Bibbia libro per libro e quindi ignorano il contesto dei singoli versetti, rischiando spesso di fraintenderne il senso. Ho cominciato allora a proporre delle serie complete, leggendo e commentando libri interi della Bibbia, sempre suddividendoli in episodi di 7-8 minuti in media. Gli episodi sono in forma scritta e in formato audio pronti per essere ascoltati. Pian piano sto producendo anche degli ebook per ogni serie in formato PDF. Naturalmente tutto il materiale è messo a disposizione gratuitamente. Ad oggi, 1 febbraio 2019, sul sito sono presenti serie complete su 13 libri della Bibbia. In particolare, per chi vuole subito prendere dimestichezza con la persona e l'opera di Gesù Cristo e con i fondamenti della fede cristiana, consiglio di leggere o ascoltare le serie sul Vangelo di Giovanni, di ben 90 episodi, Atti degli Apostoli, 82 episodi, e la lettera ai Romani, 56 episodi. Non mi resta che ringraziarti per la tua visita al sito e augurarti una buona lettura e un buon ascolto, nella speranza che questo servizio possa esserti utile. Ciao!